Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata, benvenuti a tutti a Salva Danaio. Qualche numero subito per sollevare la vostra attenzione. Buongiorno da Deborah Rosciani, naturalmente. Nei primi 10 mesi di quest'anno l'evasione fiscale in Italia è cresciuta del 9,7%, confermando il nostro paese al primo posto in Europa con il 54,4% del reddito imponibile evaso. In termini di imposte sottratte all'erario stiamo parlando di qualcosa come 157 miliardi di euro l'anno, e questo è quanto emerge da un'indagine effettuata da contribuenti.it. Nella classifica speciale degli evasori l'Italia è seguita da Romania, Bulgaria, Estonia, Slovacchia. E questa è una considerazione. Sentite quest'altro dato diffuso nei giorni scorsi. Secondo le dichiarazioni fiscali del 2009 pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze, sono ben 10 milioni gli italiani che non hanno pagato una lira di IRPEF perché guadagnano troppo poco per doverla pagare. Circa la metà dei 42 milioni di contribuenti italiani dichiara invece di guadagnare meno di 15.000 euro lordi all'anno, mentre i due terzi sono sotto i 20.000 euro lordi. Invece solo l'1% supera la soglia dei 100.000 euro lordi l'anno. Allora, perché oggi Salva Danaio si è voluto avventurare su questo terreno? Perché ci stanno incuriosendo parecchio le modalità con cui l'amministrazione fiscale ha dichiarato guerra al sommerso, agli eterni nullatenenti, nell'attesa che entri a regime, probabilmente non prima della prossima primavera, il nuovo redditometro. E allora, quali sono gli strumenti che sono stati messi in campo per scovare gli evasori fiscali? Ce ne sono due che prima di tutto attirano per il nome originale che è stato dato loro, e proprio perché vedono in prima linea l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, che tentano in questa maniera di intercettare, stanare chi denuncia redditi irrisori, ma al contempo riesce a condurre uno stile di vita del tutto incompatibile con la posizione fiscale dichiarata. Allora, noi oggi vi spieghiamo come funzionano Serpico e Perseo, il motore di ricerca dell'Agenzia delle Entrate, e il finanziere virtuale, che non avranno più nessuna pietà per i furbetti del fisco. In tutto questo percorso ci accompagneranno intanto il collega del Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo, che saluto. Marco, ciao. Buongiorno. Peraltro, diciamolo subito, perché poi naturalmente il Sole 24 Ore, insomma, è il quotidiano che si occupa principalmente in Italia di questi argomenti. I dati che abbiamo dato prima sono quelli che abbiamo visto di recente anche su altri giornali, ma in realtà sono noti da tempo, non è che ci devono scandalizzare, solo che ogni volta che vengono diffusi in qualche maniera sollevano il malumore generale e tutti sono pronti a pensare che, insomma, nessuno fa niente per combattere l'evasione fiscale. Così non è. E il dramma è che sono clamorosamente approssimati per difetto. Ecco, intanto diamo pure questa bella notizia. Allora, Flora Forte, capo reparto ufficio strumenti di analisi della Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle Entrate. Dottoressa Forte, buongiorno. Buongiorno. Ci spiegherà come funziona Serpico, mentre per quello che riguarda Perseo, stamattina abbiamo con noi il colonnello Flavio Aniello, comandante dei reparti speciali tutela entrate della Guardia di Finanza. Buongiorno, colonnello Aniello. Buongiorno, buongiorno a voi. Perché Perseo è il finanziere virtuale, oltre che, come dire, un simbolo della mitologia greca, ma il colonnello Aniello è più che mai reale, e quindi stamattina ci aiuterà a capire come viene utilizzato questo strumento e soprattutto quali dati vengono inserite all'interno anche di questo, che è un altro motore di ricerca, e anche noi come comportamento, come contribuenti, a che cosa dobbiamo stare attenti, perché non è detto che si riesca, insomma, a farla franca anche quando si è convinti di questo. 800 24 00 24, il numero verde per le domande dei nostri ascoltatori, 349 238 6666, il numero per i vostri messaggi. E allora, prima di cominciare, solo una rapida occhiata alla borsa, perché vi ho già raccontato le cose principali nel corso del giornale radio. Abbiamo un modestissimo tentativo di rimbalzo questa mattina dopo i cali di ieri per le borse del vecchio continente, in attesa di schiarite sul futuro dell'Irlanda, sul pacchetto di aiuti, appunto, che dovrebbero essere dirottati verso questo paese, forse poi con una ricaduta anche portoghese. Milano guadagna lo 0,43%, i titoli migliori Exor, Mediaset e Popolare di Milano in rialzo fra il 2 e il 3%, i peggiori Autogrill, meno 0,9%, Mediolanum, meno 0,4%. L'euro ritorna sotto la soglia di 1,30%, 1,35, 1,34 e 93 il rapporto di cambio in questo momento. La scheda la faccio sentire dopo, oggi così organizzo in maniera diversa la nostra trasmissione, perché voglio subito entrare nel merito del tema di questa mattina, che sono sicura già scatenerà, oltre le consuete attenzioni, anche non vorrei portare all'attenzione dei nostri ospiti le solite considerazioni banali, insomma non si fa niente per la lotta all'evasione fiscale, gli strumenti in campo invece sono molti. Marco, ci spieghi come sono nati Serpico, Perseo e tutto questo anche in vista della preparazione della seconda fase del redditometro? Beh, è chiaro che si tratta di strumenti sempre più raffinati per scovare i nulla tenenti che vanno in Porsche o in Ferrari, e siamo tutti d'accordo che dovrebbero essere usati in maniera spietata contro questi soggetti. Il principio ovviamente è di sfruttare tutte le potenzialità della tecnologia e tutte le banche dati che le varie amministrazioni possiedono da anni, di integrarle sempre più e di creare un'autostrada informatica attraverso la quale queste banche dati possono dialogare. L'obiettivo ultimo è quello di avere un'unica banca dati, possibilmente, in cui rientrano tutte le informazioni possibili sul reddito dichiarato, ma soprattutto sulle spese che i contribuenti sostengono nel corso di un certo periodo d'imposta, e in questo modo poter, come dire, ricostruire, fare immediatamente con un solo click un identikit del contribuente e delle tasche soprattutto del contribuente, da una parte insomma quello che entra e dall'altro quello che esce, e capire se c'è compatibilità tra le due voci. Con l'utilizzo di questi strumenti, di cui adesso parleremo ampiamente nel corso della nostra trasmissione, quanto ha già recuperato il governo, Marco, e quanto conta ancora di recuperare? Beh, in questi anni si è avuto, devo dire, un incremento forte degli incassi dalla lotta all'evasione. Quest'anno si raggiungeranno i 10 miliardi di euro, l'anno prossimo c'è un obiettivo addirittura di 20 miliardi, di cui ha parlato il direttore dell'Agenzia delle Entrate Attilio Befera, tra lotta all'evasione e tax compliance, che non è proprio lotta all'evasione, ma in qualche modo si avvicina alla lotta all'evasione. Magari poi ne parleremo dopo a proposito appunto del nuovo redditometro. Volevo intanto prima di tutto scusarmi con il colonnello Aniello, perché so di aver non spiegato correttamente la sua carica. Colonnello, mi scusi ancora, so che lei è comandante del nucleo speciali entrate della Guardia di Finanza, adesso l'ho detta correttamente la sua carica? Confermo, dei reparti speciali della Guardia di Finanza, che ha come obiettivo principale il presidio del segmento entrate. Allora, poi ci racconterà che cos'è Perseo, però volevo partire con Serpico, perché credo che comunque dal punto di vista temporale Serpico sia entrato in funzione prima di Perseo. Dottoressa Forte dell'Agenzia delle Entrate, mi sbaglio o è così? No, è così. Serpico ci consente di accedere a tutti i dati relativi a una posizione fiscale, quindi con un'interrogazione puntuale, cioè inserendo il codice fiscale di un soggetto, ci dà tutte le informazioni che l'anagrafe tributaria conosce su questo soggetto. Quindi sia informazioni che ha dichiarato lo stesso soggetto attraverso i modelli unici, oppure tutte le altre informazioni che ci comunicano gli enti esterni, quindi la motorizzazione, l'INPS, insomma tutta un'altra serie di enti che ci danno le loro base dati. Però mi premeva puntualizzare che Serpico in realtà è la punta di un iceberg, cioè noi quando arriviamo su Serpico siamo già a conoscenza del codice fiscale che vogliamo, della posizione fiscale che vogliamo approfondire, su cui vogliamo sapere tutto. In realtà noi abbiamo altri strumenti di analisi che ci consentono poi di arrivare a questi codici fiscali. Allora, tra l'altro quello che volevo anche dire è che sì, si chiama Serpico questo sistema, ma non ha nulla a che fare con Al Pacino, e Serpico sta proprio per, non è che gli avete voluto dare questo nome così per creare una condizione che potesse attirare l'attenzione dei giornalisti, ma in realtà sta proprio per servizio, per le informazioni sul contribuente. Allora, è questo dunque sistema informatico che permette di mettere in relazione informazioni diverse che riguardano ogni singolo contribuente, proprio per creare questo controllo capillare sulle operazioni, sulle spese, sui redditi da ognuno corrisposti. Tante informazioni messe insieme appunto che confluiscono su questo sistema. Dottoressa Forte, come fate però a capire quando è il caso di andare avanti nel controllo di un contribuente che risulta, come dire, strano nella sua posizione fiscale? Come ve ne accorgete? Perché noi, appunto, come dicevo prima, abbiamo tutta una serie di basi dati che sono alimentate sia dai dati dichiarati dal contribuente che dai dati che provengono da fonti esterne, da enti esterni. Nel momento in cui noi mettiamo in combinazione questi dati, si evidenziano alcune anomalie. Nel momento in cui noi andiamo a cogliere queste anomalie, approfondiamo la conoscenza della posizione fiscale. Per esempio, se la motorizzazione civile o il PRA ci comunica l'informazione della proprietà di un'auto di lusso e a fronte di questa proprietà noi riscontriamo che il reddito dichiarato non giustifica il possesso di quest'auto, ecco che andiamo ad approfondire la situazione e la posizione fiscale del contribuente, appunto utilizzando Serpico. Certo, si tratta poi di un approfondimento della posizione fiscale. Marco, il contribuente naturalmente poi ha tutto il diritto di dimostrare all'amministrazione fiscale che per esempio quell'auto qualcuno può averla dichiarata e poi intestata. Deve e può dimostrarlo se ha tutto in regola e se ha i documenti, e qui ci leghiamo al discorso, iniziamo a parlare del nuovo redditometro, perché è vero che entrerà in funzione l'anno prossimo con le dichiarazioni diciamo che si faranno l'anno prossimo e per quanto riguarda i controlli per il periodo d'imposta 2009, quindi per quello che abbiamo dichiarato quest'anno. Col nuovo redditometro scatterà un controllo capillare, poi vedremo in che modo e lo approfondiremo, ma sostanzialmente quello che è importante dire, è importante che i contribuenti sappiano, è che molto più che in passato è necessario conservare tutta la documentazione di tutte le spese, perché quando verrà riscontrata una discordanza tra quello che è dichiarato e quello che in qualche modo viene speso, o comunque l'amministrazione presume che sia stato speso perché ci saranno dei coefficienti di automatici, esattamente, no? Si chiamano, se non sì, il contribuente sarà chiamato e avrà lui l'obbligo di mostrare come ha sostenuto quelle spese che sono eccedenti rispetto a quello che si è dichiarato. Evidentemente, se non avrà la documentazione per dimostrarlo, sarà passibile tutte le sanzioni previste dall'amministrazione finanziaria. E allora, dal redditometro all'azione dell'Agenzia delle Entrate con Serpico, fra qualche istante andremo invece all'azione della Guardia di Finanza con Perseo. 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande. Colonnello Aniello, vengo a lei fra pochissimi minuti, tra poco. Salva Danaio. Uno scudo lucente, non per evitare di essere pietrificato dalla medusa, ma per stanare gli evasori. L'operazione Perseo, lanciata dalla Guardia di Finanza, è soltanto uno degli ultimi strumenti messi a punto per scovare questi cittadini che, pur avendo dichiarato redditi irrisori o peggio pari a zero, mostrano un tenore di vita e capacità di spesa incompatibili con la propria posizione fiscale. Grazie infatti alla sempre più stretta interazione tra le banche dati dell'anagrafe tributaria e quelle sparse sul territorio attraverso dei semplici clic su internet, è possibile verificare la differenza tra il tenore di vita dei contribuenti e il reddito dichiarato, dall'iscrizione dei figli a scuole private o a circoli e palestre esclusivi. Quando i dati risultano incoerenti, scatta la paletta rossa che segnala alla Guardia di Finanza il finto nullatenente. Tutto fa comunque capo alla regina delle banche dati, nata con il nome del celebre poliziotto americano Serpico. Con questa banca dati basta introdurre il codice fiscale per avere tutta la vita del contribuente. Serpico ha sotto controllo spese e guadagni di 40 milioni di italiani. E allora, avete sentito la nostra scheda, abbiamo un po' riepilogato il tema di questa mattina: caccia agli evasori fiscali con gli strumenti appunto che in questi anni sono nati con l'attiva collaborazione dell'amministrazione fiscale, l'Agenzia delle Entrate, l'ultima l'iniziativa della Guardia di Finanza, questo nuovo motore di ricerca per sé, lo hanno già chiamato il finanziere virtuale. Colonnello Flavio Aniello, lei che gestisce in sostanza e coordina tutto ciò che attiene alla raccolta delle informazioni che poi confluiscono su per sé, naturalmente, in modo tale da poter scoprire l'evasore con tre clic, come diceva Marco Mobili, che ha descritto il vostro sistema qualche giorno fa sul Sole 24 Ore. Scatta per chi non ha una posizione congrua alla paletta rossa, quindi da finanziere le deve fare anche un po' il vigile urbano, in sostanza. Sì, Marco Mobili, il vostro collega che ha avuto il privilegio di guardare in anteprima come funziona il programma, è stato attirato da questa vera e propria icona, è proprio un vero figurina di un finanziere che segnala immediatamente quando c'è da porre una particolare attenzione alla posizione che è stata posta diciamo, in esame e sotto analisi relazionale, perché il vero cuore, insomma, di questo nuovo progetto è quello di mettere in una sorta di centrifuga informatica milioni e milioni di informazioni e poi, sfruttando quella che è la nostra capacità economica di controllare il territorio, anche di cogliere non soltanto le situazioni, diciamo, di proprietà giuridica, che sono quelle che poi si ricavano dalle banche dati, siano esse proprietarie o meno, ma di misurare anche un altro importante aspetto che è proprio alla base della legge, della filosofia del redditometro, cioè di misurare anche la disponibilità di beni. Molte volte alcune persone fisiche sono in possesso di questi beni pur non avendolo la proprietà, e questo è un indizio assolutamente interessante, perché dietro questo fenomeno si possono nascondere interposizioni di persone fisiche o anche di persone giuridiche che servono proprio a eludere il controllo del fisco. Ecco, colonnello Agnello, voi avete già effettuato un percorso sperimentale per Perseo e avete già compiuto circa 400 verifiche che vi hanno portato a scoprire che nell'ambito di queste 400 posizioni 81 erano a reddito zero. Avete individuato 81 posizioni, appunto, di contribuenti che dichiaravano un reddito zero. Oltre il 20% dei contribuenti verificati, in sostanza, risultava in questo controllo, c'era un termine che era stato utilizzato sempre nel pezzo di Marco Mobili, ecco, positivi al controllo, che mi ha fatto un po' pensare anche ai controlli antidoping. Che tipo di posizione hanno dimostrato questi contribuenti? Esatto, è esattamente quello che, dopo che i nostri militari sparsi sul territorio hanno potuto leggere questa sorta di alert fornito loro a monitor, hanno potuto, dopo aver verificato questa posizione di rischio virtuale, andarla a verificare sul campo, e in molti di questi casi, 81 quanti ne ha citati lei, su circa 400 controlli, si trattava di soggetti che manifestavano con chiarezza il possesso di fatti, di indici che sono indici, chiaro indice di capacità contributiva, ma che denunciano automaticamente in parallelo un reddito che non è affatto congruo rispetto a ciò che questi indici di capacità contributiva dovrebbero manifestare. Mm-mm. E questi contribuenti, appunto, come vi dicevo, a questo punto non è che scattano sanzioni o chissà che cosa, scatta un'ulteriore scala di accertamenti, Marco Bellinazzo, da quello che capisco. Peraltro, guarda, ti faccio anche ascoltare la domanda di Massimo da Padova, che in qualche maniera era stato attirato da quello che dicevi tu prima, adesso, per ovviamente dimostrare il profilo assolutamente immacolato di contribuente, bisogna, appunto, dimostrarlo. Carte alla mano, Massimo da Padova, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Mi sono fermato e vi ringrazio e vi faccio i complimenti per la trasmissione. Io volevo sapere, ma la documentazione che sentivo un attimo fa, bisogna tenerla di più. Intanto, cosa vuol dire tenerla da parte? Quanti anni? Quanto tempo? Mm-hmm. E se poi io non mi ricordo o non riesco a giustificare una cosa perché non mi ricordo, perché devo essere perseguito da una sanzione? Cioè, dovrebbero dimostrarmi allora che io o non ricordo, sto facendo il furbo a non ricordare questa cosa. Cioè, Massimo, allora qui adesso non vorrei che si facesse. Quali sono delle carte? Quanto devo tenere queste carte in casa, delle spese che vado a mangiare di qua, che vado a cambiare le gomme di là, che compro la macchina di qua, con che soldi? Certo, io credo che dipenda anche, Massimo, un attimino dalla professione che si fa, perché credo che un contribuente, io, Deborah Rosciani, che sono una dipendente del Sole 24 Ore, non credo di dover essere obbligata a conservare tutte le fatture o tutte le ricevute dei ristoranti che ho frequentato negli ultimi anni. Ma se sono un imprenditore che magari utilizza questa certificazione perché sono cene di lavori, quindi in qualche maniera le scarica dalla dichiarazione dei redditi, cioè bisogna anche capire in che posizione ci si trova, Marco Bellinazzo. Sì, partiamo dal presupposto che gli accertamenti possono avvenire di norma fino a 5 anni dopo la dichiarazione, quindi un anno d'imposta più 4 anni normalmente. Quindi, se si è avuto la possibilità in dichiarazione di scaricare determinate spese, di attingere a detrazioni o deduzioni d'imposta, e ci sono documenti che giustificano questi vantaggi fiscali, queste agevolazioni, è chiaro che quei documenti vanno conservati, e il principio dell'accertamento sintetico a cui è collegato il redditometro e impone proprio questa inversione dell'onere della prova, e quindi sarà il contribuente a dover dimostrare che quelle spese, che ripeto eccedono il reddito dichiarato, sono giustificate da altre fonti di reddito, insomma dal risparmio, da una donazione, da una vincita, e quindi evidentemente si crea l'esigenza di una maggiore attenzione, ecco, rispetto al passato. Questo è il principio che ispira l'amministrazione finanziaria in questo momento, ed è chiaro che per i contribuenti l'onere sarà maggiore, bisogna fare i conti con questa realtà. No, tra l'altro Gaia, scusami, siccome sto guardando le anticipazioni delle domande che arrivano dagli ascoltatori, te lo dico già in diretta, c'è una testimonianza che mi sembra piuttosto interessante, che ci vorrebbe fare l'ascoltatrice di Frosinone, Maria, perché dice che insomma ha un fratello che ha un'impresa che non paga l'INPS da 15 anni. Io vorrei capire anche effettivamente la gestione di questa azienda, come sta avvenendo. Allora, 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Roberto da Arezzo si sente un po' nel mirino del fisco. Roberto, buongiorno, perché? Sì, no, nel possibile mirino, perché io sono un grande appassionato di moto e di auto che, data la mia età, ho collezionato a partendo quando avevo 20 anni, 22, 23, che nessuno voleva, e riaccattavo così in giro perché sono un perito meccanico e che quindi curo da me. E quindi il fisco vedrà che io ho 10 moto, 20 moto, non so quante, e sono, diciamo, immatricolate, più due o tre macchine d'epoca, e mi dirà come, diciamo, posso mantenere tante macchine così. Non so come si comporterà, ecco. Io le curo da me, quindi non è che, diciamo, non è che è andato insomma sui mercati internazionali a cercare. Vabbè, a Roberto, che lavoro fa? Ferrari, che lavoro fa Roberto? Le posso chiedere quali sono le sue entrate, da che cosa dipendono, in sostanza, per capire effettivamente se anche questo può suscitare l'attenzione? Io ho delle entrate che, io sono un imprenditore, quindi ho fatto delle entrate negli anni sempre, diciamo, abbastanza elevate, però, diciamo, negli ultimi tempi l'attività è stata, diciamo, quasi chiusa, perché con la crisi adesso, quindi sono un po' meno, qualche anno di più o di meno, ecco, ma sono sempre intorno a 40-50 mila euro, diciamo, all'anno. Ecco, certo. Non, Roberto, non 10, che è zero il mio reddito. Ecco. Allora, prima sentiamo cosa ne pensa Marco Bellinazzo, poi andiamo sia a Serpico che a Perseo, e come potrebbero questi due strumenti accendere i riflettori su Roberto. No, per Roberto e per tutti i contribuenti, anche per me, quindi lo dico e lo ricordo, l'Agenzia delle Entrate ha promesso e metterà a disposizione un software sul suo sito a partire dalla prossima primavera, e quindi prima delle prossime dichiarazioni, un software in cui diciamo si potranno inserire i dati della dichiarazione, i dati relativi a tutte quelle spese rilevanti che l'amministrazione intanto sta definendo, perché il nuovo redditometro non è ancora definito nelle sue caratteristiche tecniche. Ci sta lavorando l'Agenzia delle Entrate, ci sta lavorando la SOSE, vedremo come sarà effettivamente strutturato. In ogni caso si potrà fare questo giochino, chiamiamolo giochino, perché per molti potrebbe essere una vera tragedia, e quindi si inserirà il reddito, si inseriranno i dati relativi alle spese che, ripeto, l'Agenzia delle Entrate ci dirà essere qualificanti, e alla fine verrà fuori un risultato che ci dirà se siamo oltre il limite del reddito considerato congruo per quelle spese, o se sarà superato il limite del 20% che la legge considera appunto accettabile. A quel punto si saprà che con quel reddito dichiarato e con quelle spese saremo possibili target di accertamenti sintetici da redditometro, e a quel punto è chiaro che tutto quello che potremo raccattare come documentazione per giustificare la spesa anche per anni molto addietro sarà utile per difendersi in caso di eventuali controlli. Dottoressa Flora Forte dell'Agenzia delle Entrate, che cosa suggeriamo di fare a Roberto d'Arezzo? Che tipo di documentazione deve tenersi da parte, appunto, per poter dimostrare che le sue auto, le moto d'epoca, lui diceva, le ha raccattate nel corso degli anni, se le ha sistemate da sole, quindi insomma non sono neanche, come dire, questi acquisti frutto magari chissà quali stravaganti speculazioni finanziarie, e quindi potrebbe essere un hobby assolutamente congruo con il tipo di reddito che dichiara? È chiaro che il contribuente dovrà mantenere tutte le spese e le fatture che giustificano questi raccattamenti nel corso degli anni e la manodopera che lui ha utilizzato. Però magari ha una moto d'epoca di 15 anni fa, e sicuramente lui 15 anni fa non avrebbe mai immaginato che sorgesse Serpico o comunque Perseo, e quindi magari non ha più niente ed è... Sì, però diciamo che lui dobbiamo prima verificare che in effetti il reddito che ha dichiarato il soggetto non è congruo rispetto a tutte le moto e gli autoveicoli che il contribuente dice di avere. Lui, insomma, mi sembra che lui già si pone insomma in un atteggiamento di difesa. In realtà noi dobbiamo prima verificare che ci sono i presupposti per un controllo, perché se dal reddito dichiarato noi ci verifichiamo che in realtà il reddito è congruo, noi non andremo mai a chiedere queste fatture al signore di cui non ricordo il nome. È chiaro che se oltre agli autoveicoli, poi alle moto, noi abbiamo altri elementi di capacità contributiva che fanno lievitare, diciamo, la sua capacità contributiva e il reddito non diventerà congruo, è chiaro che a questo punto, oltre alle fatture della moto d'epoca, magari insomma dovremo giustificare anche gli altri elementi di capacità contributiva. Suggerimenti per chi è in viaggio, tra poco. Per completare il quadro sulla situazione dell'ascoltatore che ha queste moto e auto d'epoca, vorrei sentire anche che cosa ne pensa il finanziere virtuale Perseo e quindi il colonnello Flavio Aniello della Guardia di Finanza. Insomma, che tipo di accertamenti potrebbe andare incontro questo nostro ascoltatore? Potrebbe risultare una bella paletta rossa per Roberto, colonnello? No, quello di Roberto, il nostro amico imprenditore, è un falso problema. Coltivando una passione o un hobby personale, magari già da molti anni si acquisiscono questi tipi di beni evidentemente di scarso valore, a noi interessa il momento in cui viene effettuata la spesa, quindi il momento concreto, agiamo quasi secondo un principio di cassa, per cui se questo bene assume nel tempo un valore maggiore per effetto del lobby che viene coltivato, a questo punto questo bene avrà soprattutto un valore affettivo, ma non rileva certo ai fini del redditometro. Tra l'altro, nell'attuale stesura della norma, questi incrementi patrimoniali, così noi li chiamiamo, hanno effetto ai fini dei calcoli nell'anno in cui vengono sostenuti, quindi nell'anno in cui si realizzano e nei 4 anni precedenti. Con la nuova versione del redditometro addirittura si andrà proprio in un principio di cassa pura, cioè ci interessa soltanto il momento in cui la spesa viene effettuata. Quindi se è paradossalmente chiaro, la dichiarazione dei redditi di questa persona quest'anno fosse stata radicalmente diversa per esempio da quella dell'anno scorso, di 2 anni fa, perché naturalmente poi l'economia è andata come è andata, e contestualmente avesse acquistato 2 auto d'epoca molto costose appunto, e questa spesa fosse stata rilevata da parte vostra, certo. quello è quel... Se in questo periodo si acquistano 2 auto d'epoca e si sostiene una spesa rilevante, è chiaro che di questa spesa, sommata a tante altre, perché poi il principio del redditometro è quello di effettuare una grossa centrifuga di dati e di sommare tanti indici di capacità contributiva, è chiaro che deve essere in grado di dimostrare il contrario, perché uno dei principi sui quali si sta basando l'amministrazione finanziaria, e voi l'avete segnalato in un bell'articolo di un paio di giorni fa, è quello proprio di aumentare il numero delle presunzioni legali relative, cioè mettere in condizione l'amministrazione finanziaria di non dover essere costretta a dimostrare pedissequamente, ma di dare la palla, se così si può dire, al contribuente, il quale deve giustificarsi in questo senso. Il contribuente onesto praticamente non ha da temere. Certo. Colonnello Aniello, Luca ci scrive: coloro che intestano a terze persone, tipo la madre nullatenente, qua è la mamma nullatenente che entra nel vostro mirino, probabilmente. Ecco, questa è un'altra facoltà di Perseo, cioè quella di estendere l'indagine a quella che noi chiamiamo la famiglia fiscale. Il nostro finanziere virtuale è in grado di abbassare la paletta rossa se automaticamente un altro componente della famiglia ha dei redditi congrui, cioè che permettano di sostenere uno stile di vita lussuoso magari anche a una persona della famiglia che è nullatenente. È chiaro che però in questo si possono nascondere anche i fenomeni di interposizione, cioè il trucchetto di intestare ad altra persona che magari non ha redditi congrui, che però immediatamente vengono, come dire, rilevati, perché l'indagine relazionale si estende in automatico a tutti coloro che fanno parte della famiglia. Allora, c'è un ascoltatore che adesso non so se riusciamo a pescare telefonicamente, chiedo appunto anche a Gaia di recuperarci Roberto da Pescara, perché ci fa una domanda piuttosto interessante su ad esempio il rimborso della rata mensile del mutuo e la relazione con il reddito dichiarato. Però oggi tutti i Roberti ci stanno chiamando, non so cosa sia successo, sarà una congiuntura astrale. Andiamo a Roberto da Modena, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, dottoressa. Ci dica. La ringrazio di darmi la possibilità di intervenire. Velocemente, io ho una domanda che mi frulla in testa da parecchi anni. So che il sistema informativo del Ministero delle Finanze italiano è uno dei più sofisticati al mondo. Lei ha lì le persone che me lo possono confermare. A questo punto, visto che la prima cosa che viene fatta, che lo Stato fa per un cittadino italiano nella sua nascita, è l'attribuzione del codice fiscale, io mi chiedo perché non è possibile adottare un sistema fiscale non come quello americano, tipo quello americano, dove ogni singolo cittadino fa la sua denuncia dei redditi come se fosse un'azienda. A questo punto, visto che c'è una certa facilità di controlli per via del codice fiscale, è l'unico sistema che io conosco, e non c'è nessuno che mi abbia mandato una risposta né politico né tecnico su questa mia domanda. Fine della domanda. Roberto, guardi, qua dovremmo addirittura chiamare, non so, forse il ministro dell'economia per risolvere una questione. Perché non ci adeguiamo anche al sistema statunitense? Marco, vuoi aiutarmi tu in questo? Beh, c'è una riforma fiscale in atto, magari può essere un suggerimento per il ministro. Il sistema italiano, il problema è che tutto questo di cui stiamo parlando, come dire, è collegato ad una emersione del contribuente, appunto il codice fiscale. Senza codice fiscale, per esempio, Serpico non può intervenire, paradossalmente, non c'è il codice fiscale. E il problema è che anno per anno si scoprono decine, se non centinaia, di contribuenti che non esistono in realtà, di imprese. Il sistema fiscale italiano in qualche modo funziona, nel senso che le entrate reggono nonostante la crisi, c'è un lieve calo. La lotta all'evasione funziona, gli strumenti ci sono a disposizione. Io direi che prima di passare a modelli americani, meglio far funzionare il modello che abbiamo nostro. Allora, Roberto da Pescara, rapidissimo, buongiorno. Sì, buongiorno. Mi domandavo se Serpico per sé hanno la possibilità di accedere alle banche dati per chi si indebita e quindi rimborsa con redditi medio-bassi rate di 1.000-1.500 euro al mese. Roberto, credo che questa sia un'altra tipica incongruenza che può finire nel mirino di questi strumenti. Dottoressa Forte per Serpico. Ma noi quando cerchiamo di contestualizzare la posizione fiscale cerchiamo di farla nel 360 gradi, quindi andando a cercare tutte le informazioni che possono da un lato giustificare le eventuali spese effettuate, che so, l'accensione di mutui oppure insomma attraverso i dati che ci forniscono le banche anche l'accesso a prestiti, quindi chiaramente cerchiamo di sempre contestualizzare la posizione del contribuente per evitare di importunare contribuenti che magari ci possono già di cui già sappiamo le giustificazioni. Anche perché comunque ritengo adesso qua già la trasmissione è terminata, non riusciamo ad analizzare approfonditamente questo caso che è piuttosto interessante. Adesso magari è un conto e accendere un mutuo nel momento in cui si hanno le condizioni reddituali per farlo, poi magari cambia la posizione lavorativa. Marco, concludo con te perché ho veramente 10 secondi, ma il mutuo bisogna continuare a pagarlo, magari questo contribuente va ad intaccare un po' il risparmio che ha, ma non è detto che questo dimostri una posizione fiscale come dire, incongrua, come la vogliamo chiamare. Ecco, il senso, questo è un tipico esempio di attenzione che si richiede all'amministrazione finanziaria, cioè valutare fino in fondo la posizione del contribuente, quindi considerare anche situazioni, come dire, di difficoltà economiche che determinano incongruità formali, ma di fatto insomma non casi di evasione. Purtroppo devo chiudere, non riesco a sentire di nuovo anche il colonnello Aniello, ma direi che questa è una trasmissione da riorganizzare sicuramente al più presto, magari in procinto anche della partenza la prossima primavera del redditometro. Grazie a Marco Bellinazzo, Flora Forte, il colonnello Flavio Aniello della Guardia di Finanza. Salva Danaio torna domani, buona giornata a tutti.